Si riparte, ma come? Teoricamente da oggi possono aprire parrucchieri, estetisti, barbieri, bar, ristoranti, negozi, ma le famose linee guida contenute in 120 pagine di allegati sono arrivate solo ieri, quindi i primi giorni saranno di inevitabile incertezza. È all'ombra di uno scontro tra le regioni e lo Stato che va oltre il consueto standard governo amico o nemico. Infatti il presidente Campano De Luca non ha firmato l'intesa con l'esecutivo e i locali pubblici li riapre fra 5 giorni, rinvia anche il Piemonte. Arrivano norme anche per campi estivi per bambini e attività per adolescenti, ma al momento nulla su scuole, asili nido, materne. Si continua a discutere nel frattempo del prestito richiesto da Fiat Chrysler con garanzia dello Stato. Protesta qualcuno, ha sede in Olanda, non è giusto, e si chiedono controgaranzie, a partire dal fatto che questo denaro venga usato per le attività italiane. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È lunedì 18 maggio, sono le 6:31. Abbiamo mantenuto i Rolling Stones, come avete sentito, ma cambiato un po' musica. Non è che siamo proprio liberi di fare tutto, per carità, però, qualcosa in più da oggi, si possono vedere gli amici, Graziosamente lo Stato ci concede di vedere gli amici. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, soprattutto audio, la vostra voce oggi la voglio sentire. Ditemi un po'. State riaprendo la vostra attività? Come la state riaprendo? Aspettate ancora, perché insomma queste linee guida sono arrivate una dozzina di ore fa tutto sommato, e quindi chissà chi ha un bar, un ristorante, un negozio, cosa deve fare? Si andasse a spulciare gli allegati e le loro 120 pagine e poi decidesse se è in ordine oppure no. Oppure avete già riaperto da qualche giorno, siete già ripartiti, oppure non avete mai smesso di lavorare dall'inizio di questo lockdown. Le vostre voci, dai. A voi che siete la nostra vera task force, accompagnata dagli altri pezzi che questa mattina sono Carmelo Lauricelle regia, Lorenzo Nespoli in assistenza insieme a Giorgio De Luca in redazione, e tutti gli altri, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, sempre della nostra redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Oh, eccoci. Dunque, da cosa iniziare? Da questo nuovo scontro tra le regioni e il governo, da queste perplessità delle regioni già espresse ieri pomeriggio. Pensate che ieri, per esempio, Giovanni Toti, il presidente della Liguria, era ospite di Lucia Annunziata e diceva: mentre vi parlo, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ancora non c'è. Abbiamo ragionato molto sulle regole con cui il paese deve riaprire domani. Ancora, per la verità, mentre vi parlo, stiamo aspettando il decreto del Presidente del Consiglio, di cui abbiamo discusso tutta la notte. Quello che le ragioni unitariamente, destra, sinistra, nord, sud, stanno sostenendo, e con un compendio di regole che hanno scritto con grande serietà, è che noi domani dobbiamo riaprire l'Italia con delle regole che artigiani, commercianti, albergatori, parrucchieri possano comprendere ed applicare, altrimenti da una partenza si trasformerebbe in una falsa partenza. Ancora Toti. E a volte sembra che ci sia una sindrome del gambero in questo paese. Quando si trovano delle regole che vanno bene a tutti, c'è sempre qualcuno che alza il ditino e ci riporta invece nella melassa della burocrazia, nella melma delle responsabilità condivise. Dice Luca Zaia, sono sempre dichiarazioni del pomeriggio, poi le firme sono arrivate. L'ordinanza è scritta, ma non la firmo prima di vedere le carte dal governo. Ieri vi ho detto non firmo l'ordinanza perché voglio vedere il DPCM, oggi vi dico l'ordinanza l'ho scritta, ci manca solo la mia firma, aspetto solo in via prudenziale, siccome abbiamo a che fare con Roma, e con Roma è sempre sorprese, in via prudenziale di vedere il testo. Quanto è veneta questa cosa, quanto è veneta questa cosa di Zaia. Da Roma che sempre sorprese, non è male. Prescinde da questo governo, credo, credo che sia proprio un ragionamento generale. De Luca dice non firmo l'accordo Stato-Regioni, non lo firmo. Cioè ci sono alcune decisioni. Per questo la Regione Campania non ha firmato l'intesa con il governo. Voglio correggere un'informazione che è girata in queste ore sugli organi di informazione. Raggiunto l'accordo Regioni-Stato, la Campania non è d'accordo, non ha firmato nessun accordo. Perché? Perché io ritengo che su alcune norme di sicurezza generale debba pronunciarsi il Ministero della Salute. Poi è chiaro che è necessaria una flessibilità regionale. Ma sulle norme fondamentali non è possibile che il Ministero della Salute e il Governo scarichino opportunisticamente le decisioni sulle regioni. Questo non è accettabile. Capito qual è il fronte di polemica? E c'è anche questo tema dei flussi tra le regioni che ripartiranno il 3 di giugno. Qualche ascoltatore ci scrive protestando e dicendo: ragazzi, ma com'è possibile che, insomma, chi abita un confine con una regione può raggiungere l'estremo opposto della sua regione e non può andare a 3 km di distanza, no? Comunque, Toti. Ma certamente sì, Annunziata, la Liguria è una realtà che vive di una piattaforma logistica, turistica, siamo il primo porto del Mediterraneo, noi viviamo di traffici attraverso la nostra frontiera, sia di turisti, sia di merci, sia di persone. Io mi auguro che al più presto possa ripartire tutto, perché il Covid fa tanta paura, ci ha fatto tanta paura e ci ha fatto tanto soffrire, ma l'economia di questo paese non ci sta, come dire, prospettando situazioni di miglior favore. Ancora De Luca, piuttosto polemico ieri. Adesso mi dicono, ho sentito ieri le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, dal 3 giugno liberi tutti. Io non lo so che cosa succederà il 3 giugno. Io cercherò di ragionare il 2 giugno per sapere qual è la situazione epidemiologica. Che significa liberi tutti? Se il contagio viene contenuto, va bene. Se abbiamo ancora livelli elevati di contagio, che significa liberi tutti? Questo è un motivo per cui io dico che anche nel rapporto Regioni-Stato dobbiamo avere una posizione equilibrata. Torna da noi Daniela Preziosi del Manifesto. Ciao Daniela, buongiorno, come stai? Piuttosto bene, buongiorno a tutti e a tutte, sto bene, ci fa piacere. Fino a qui tutto bene, come diceva quello che cadeva dal palazzo, fin qui tutto bene. Ascolta, cara Daniela, ancora una volta, il tema è quello del rapporto tra le regioni e lo Stato, che più di una volta è emerso come elemento di forte tensione in queste settimane. Sì, non se ne esce, però è un problema, diciamo, di legge, nel senso che il potere d'ordinanza ce li hanno i presidenti e il potere legislativo ce l'ha lo Stato centrale, anche poi le regioni, poi ci sono le ordinanze dei sindaci che in questo momento sono particolarmente composti, ma che sicuramente, siccome restano le autorità sanitarie, sono quelle cittadine, poi semmai ci dovesse essere, e Dio non voglia, qualche impennata di contagio, poi saranno i sindaci a dover anche mettere mano alla situazione, quindi non se ne esce dalle materie concorrenti. Diceva De Luca che ci vuole una posizione equilibrata, ecco, la dovrebbero praticare un poco tutti. Io capisco che la situazione è complicatissima, questa selva selvaggia di norme, linee guida che entrano e escono, sono molto complicate, soprattutto per chi oggi deve riaprire le attività, insomma, per carità. Però è anche vero che siccome sono i presidenti delle regioni che hanno chiesto un'accelerazione rispetto all'atteggiamento molto più prudenziale del governo, è anche vero che se c'è questa accelerazione qualche norma, diciamo così, dovranno accettare che è un po' meno chiara. Dopodiché è chiaro che ci sono delle situazioni ridicole, quella di cui parlavi tu, che uno che sta al confine tra il Lazio e la Toscana non possa andare in Toscana ma possa andare a Fondi e a Latina, fa un po' sorridere, però sono, diciamo, i problemi di una libertà. Daniela, ti fermo un attimo perché poi abbiamo anche un WhatsApp, cioè il primo WhatsApp che ci è arrivato questa mattina da un ascoltatore, lo sentiamo. Carmelo, vai. Ma abitando sul confine tra Mantova e Reggio, ma perché io posso andare fino a Sondrio e non posso andare dall'altra parte del Po a Guastalla, che distano 8 chilometri? No, è un po' questo il punto, non certo, è difficile dargli torto. Ma il confine tra la Francia e l'Italia, tra la Francia e tra l'Italia, insomma, anche lì sarebbe da fare lo stesso discorso, però insomma i confini sono delle linee teoriche di organizzazioni statuali, regionali, così è chiaro che dovremmo soffrire ancora un poco di questi, ma stiamo dicendo che stiamo cercando di ancora trattenere un virus che è no border, perché invece il virus il confine non lo rispetta, certo. Quindi un pochino anche noi dobbiamo prenderci, io penso che la responsabilità personale sia la linea guida principale di tutta perfetto, questa fase. Perfetto, sono perfettamente d'accordo. Detto ciò, c'è appunto questa questione delle linee guida che sono arrivate tardi, che non si sa esattamente che cosa fare. Sentite qua, adesso non so da che trasmissione abbiamo raccolto, adesso lo recupero, è un ristoratore di Testaccio a Roma. Le linee guida ce le dovevano da minimo 15 giorni fa, anche perché tu mi dici di mettere il Plessidax sui tavoli, dove lo trovo il Plessidax? Che non ce l'ha più nessuno. Mi parli delle mascherine, dove le trovo le mascherine? Che non ce l'hanno. I guanti non si trovano. Allora tu due giorni prima, un giorno e mezzo prima mi dici come devo aprire e lunedì apro. Come apro? Così. Dipendesse solo da noi, per noi ci converrebbe sta chiusi e riaprire quando le cose si sono messe nel verso giusto. Anche perché se no te la rischi, Daniela, tu cioè riapri però non sai se ti arriva un vigile o un finanziere, certo, un carabiniere, un poliziotto particolarmente occhiuto che ti dice guarda, intanto ti do una multa e poi ci ragioniamo subito poi dopo. Poi discutiamo, no? Sì, questo è successo, tra l'altro una delle cose peggiori di questo periodo è stato quello di affidare alle forze di polizia, alle forze dell'ordine un po' l'arbitrio, insomma, diciamo la scelta di capire se uno era o non era direzionato verso un parente, cose insomma che non sono state cose non commendevoli, non belle. Però è anche vero che le linee guida dell'INAIL sono arrivate molto presto, il tema è che i presidenti delle regioni, i governatori, noi li chiamiamo così per semplicità, hanno deciso che non andavano bene perché erano troppo prudenziali e quindi hanno chiesto al governo nottetempo di sostituire quelle dell'INAIL che non hanno accettato con quelle proprie concordate tra le regioni, quindi è chiaro che i tempi si sono accorciati, ma tutto questo viene dal fatto che è stata chiesta un'accelerazione delle riaperture, quindi non è che adesso, io non sono una fan sfegatata di questo governo, però insomma diamo a Cesare quello che è di Cesare e a De Luca anche quello che è di De Luca, perché insomma poi ci sono dei governatori che hanno chiesto, avete sentito Toti, cioè avete mandato in onda Toti, altri governatori che chiedono invece di essere ancora più prudenti, insomma vuol dire non è colpa solamente del governo centrale, qui insomma un po' ognuno vorrebbe, no, è vero, è oggettivo. Diciamo, oggettivo. Vorrebbe non avere la vorrebbe aprire ma non avere la responsabilità, talvolta anche civile e penale, perché qui il problema sarà, sì, che chi si ammalerà un giorno se la prenderà con qualcuno, e questo è il punto, no? È un punto che anche nelle imprese, nelle industrie, nelle aziende e anche nel commercio sarà dirimente. Se qualcuno starà male, poi avrà forse diritto anche di chiedere dei risarcimenti, e questo, diciamo così, sarà un capitolo più complicato e più spinoso da dirimere. A proposito di regioni, allora Luca Zaia on fire ormai da settimane, no? È il, un po' quello che è emerso anche dai sondaggi, come quasi un leader nazionale, se vuoi, anche per queste conferenze. Allora, ognuno ha il suo stile, no? E abbiamo imparato a riconoscerli. C'è quello di De Luca, no? Con quest'area un po' tosta. C'è quello di Zaia, che è estremamente semplice. Dunque, le linee guida dei ristoranti spiegate da Luca Zaia. Quante volte vi ho detto che se è un metro, è un metro per tutti? Ve lo ricordate quante volte? Boh, nelle linee guida, se è un metro per tutti, è passata la nostra linea. Quindi i ristoranti, predisporre, ve ne leggo una a caso per far capire la semplicità delle linee guida, predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione. C'è un cartello scritto, guarda che sei in un ristorante, queste sono le regole. Potrà essere rilevata la temperatura? Potrà. Se ci si organizza per rilevare la temperatura corporea, meglio. Se non lo fai, non è obbligatorio. È necessario rendere disponibili i prodotti igienizzanti. Vi ricordate che vi dicevo, ai tavoli la boccetta di ammuchina e finisce lì. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l'accesso tramite prenotazione. Il tutorial di Luca Zaia, niente male, niente male. Il nostro Aranzulla delle distanze ai ristoranti, il traffico. Mattino. Simone, io ho un panificio, l'ho sempre tenuto aperto, beh, abbiamo fatto presidio, ma 120 pagine di allegati per mettersi a norma? Io onestamente fatico a comprendere l'impossibilità di spostarsi tra regioni, quantomeno contigue, con bassi tassi di contagio da Covid. Io abito in Calabria, ho una casa al mare in Sicilia, devo fare dei lavori di manutenzione, non li posso fare, quindi io fino al 3 giugno non posso andare nella mia casa al mare, però in compenso devo pagare i tributi per intero. Oh ragazzi, questo è il problema. Occhio però ai 120 pagine, nelle 120 pagine di allegati sulle quali abbiamo un po' scherzato. Non è che sono 120 pagine nelle quali danno. Sono 120 pagine nei quali danno, che ne so, ci sono 3 pagine dedicate alle messe, 3 pagine dedicate al culto per i protestanti, ci sono 3 pagine dedicate al culto buddista, ci sono 7 pagine sui bambini e come gestire i centri estivi, 10 pagine sui ristoranti, poi le spiagge, eccetera, eccetera. Quindi non è che vi dovete leggere tutte le 120 pagine, se volete ve le scaricate, ve le andate a guardare. Insomma, e trovate la parte che vi riguarda. Scrive un altro ascoltatore: i presidenti di regione non vogliono aprire, ma non vogliono assumersi la responsabilità che vogliono sganciare sul ministero, che è quello che ci diceva Daniela Preziosi. Insomma, un buon punto questo, ed è un buon ragionamento. Il governo si è trovato un po' stretto in questa cosa. Dunque, vogliamo in questa settimana ricominciare a dare un'occhiata all'estero e iniziamo dalla Gran Bretagna, va. Lo facciamo con la nostra regina Liliana Faccioli Pintozzi, corrispondente a Londra di Sky TG24. Liliana, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Come stai? La resistenza della regina, tra l'altro, in questa fase è notevole, notevole, notevole. Beh, lei pratica la distanza sociale da anni, da sempre, chiusa dentro Buckingham Palace in queste ore. Allora, è stata molto confusa, mi pare, la gestione britannica della crisi, Liliana. A che punto siamo? Allora, oggi siamo la nona settimana di lockdown, per un paese che non doveva andare in lockdown non è male. Da mercoledì abbiamo iniziato una vaghissima fase 2 che vale solo per l'Inghilterra, perché Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno detto no grazie, i numeri ancora non ce lo permettono. È una fase 2 veramente accennata, come dire. Il grosso della fase 2 sarà il primo giugno, quando dovrebbero riaprire i negozi, le scuole, su cui c'è un grandissimo braccio di ferro, come potete immaginare, perché insomma la questione scuole è forse una delle più delicate, e ripartirà anche, questo farà piacere a molti, la Premier League. Dovrebbe arrivare oggi il via libera per allenamenti da domani e premier gare da metà giugno. Per adesso siamo ancora in una fase un po' sì, un po' no. Ecco. Ma dal punto di vista epidemiologico, che cosa sta succedendo in Gran Bretagna dal punto di vista dei numeri, delle vittime, dei contagi? Il famoso picco è stato superato dai primi di aprile. Siamo a più di 240.000 contagi, circa 35.000 vittime. Il sospetto, anzi la certezza, che siano numeri assolutamente solo punta dell'iceberg, perché la realtà del contagio sicuramente, ma anche delle vittime, è molto più alta. Basti pensare, l'Ufficio Nazionale di Statistica ci dà ogni settimana il conteggio, un conteggio che tiene conto anche delle morti sospette. Ecco, settimana scorsa avevamo 30.000 morti ufficiali, 41.000 sospette. Oggi siamo a 35.000, vedremo domani, perché arriva di martedì questa cifra, che cosa ci diranno. Quindi i numeri sono ancora molto grossi, anche se stanno scendendo tantissimo. Gli ospedali non sono più presi da, cioè non hanno più quelle situazioni in terapia intensiva che c'erano prima, anche se non abbiamo mai visto le difficoltà italiane, diciamo. Perché in questo caso l'epidemia è stata sparsa su tutto il territorio nazionale, non soltanto su una zona. E la cosa strana è che si è spostata. Prima era Londra il centro di tutto, la zona più colpita, adesso Londra è una delle zone meno colpite di tutto il paese. E quindi si sta lentamente, ci si sta piano, lentamente piano. Riaprendo. Ma, sì. Ma com'è la a Londra? C'è la gente nei parchi? Com'è la situazione? Bisogna star chiusi a casa? Come funziona? Come sta funzionando la vita là da voi? No, adesso da mercoledì è un po' più aperta la situazione, cioè, sono i parchi sono il centro della vita sociale al momento, perché si può stare al parco in teoria soltanto con un amico oppure con le persone con cui vivi, quindi la tua famiglia, sì, o i conviventi, e tutto il resto è ancora chiuso. Quindi amici consentiti, amici consentiti. Un amico vero, sperabilmente. Esatto, non parliamo di congiunti, però un amico. Tutto questo ovviamente mentre anche qui si studia la famosa app per poi ripartire in sicurezza, ma anche qui molti ritardi, doveva partire ieri. Sì. Partirà forse primi di giugno. Sì, che è più o meno quando dovrebbe partire la nostra app. Oh, c'è tutta la questione, in effetti, c'è tutta la questione. E chiedo a Carmelo Lauricella di preparare i file che abbiamo dalla Lombardia. C'è tutta la questione che ha a che fare con come affrontiamo questa fase dal punto di vista sanitario. Ossia, c'è l'app, ci dovrebbe essere l'app e non c'è. Ci dovrebbe essere le mascherine, ma non si, ci dovrebbero essere le mascherine, ma non si trovano dappertutto. Ci dovrebbero essere i medici che sono pronti. Però dice, per esempio, Roberto Carlo Rossi, il presidente dell'Ordine dei Medici della Lombardia, dice questo. Adesso, per esempio, un altro grossissimo problema è che non si trovano i guanti. Poi camicie repellenti sono una roba introvabile, semplicemente. Le visiere, pure quelle, hanno dei costi improponibili. Dice Paola Pedrini, segretaria regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, quindi i medici di base. All'inizio non avevamo i dispositivi di protezione, ora quello che sta arrivando è ancora poco materiale e arriva soprattutto da donazioni. Quindi l'attenzione per noi sicuramente deve essere mantenuta alta e allo stesso modo i pazienti devono ricordarsi che siamo ancora in emergenza. L'impressione, cara Daniela Preziosi, è che noi siamo entrati in questa fase 2 senza che la parte sanitaria della fase 2 fosse pienamente operativa, sotto tutti questi aspetti. Che dici? Anche la fase 1 non è stata male, però in questo senso. Sì, no, sicuramente, certo. Le mascherine non si sono mai trovate, adesso si trovano le mascherine e ha ragione il medico che non si trovano i guanti neanche nei supermercati. Perché no, e poi perché non parliamo dell'alcol, questo sconosciuto? Ah sì, sparito nel nulla. Esatto, improvvisamente è diventato un bene di lusso che hanno io ho ancora una boccetta che tengo come una reliquia e che uso come se fosse un whisky di 106 anni di invecchiamento, insomma, per cui e questo è il tema, però è anche un tema che non ha a che vedere anche lì, ha a che vedere col mercato che evidentemente da solo non si autoregola. Io non sono una fan del pasticcio che si è creato sulla vicenda del prezzo imposto alle mascherine, però è pure vero che evidentemente quelli che pensavano che la mano invisibile del mercato avrebbe fatto tutto, qualche cosa adesso se la devono anche chiedere. La mano invisibile del mercato ci ha portato in queste condizioni, quindi dovremmo un po' ripensare tutto questo. I presidi sanitari non ci sono mai stati, cioè non è che non ci sono mai stati, però insomma sono stati sempre introvabili, sempre difficilmente trovabili. Sì, se il forse il libero mercato avrebbe avuto bisogno di una mano, però il prezzo imposto non ha aiutato il reperimento d'altro canto, degli oggetti, però il prezzo impazzito bisognava in qualche maniera fermarlo, perché era un po' ridicolo che dentro le farmacie, non dentro diciamo negozi qualsiasi, ma dentro le farmacie il prezzo delle mascherine diventasse 5, 6, 10 volte tanto, quindi anche questo diciamo non ha aiutato. Io ripeto, secondo me il tema è fortissimo, perché noi adesso dovremmo riprendere una vita piena dovendo essere responsabili, ma non avendo la possibilità concreta di proteggerci ovunque. Faremo come al solito fanno gli italiani, ci arrangeremo con responsabilità personale. Come abbiamo fatto fino adesso, Francia o Spagna per esempio ne hanno messe a un euro, hanno imposto il prezzo a 1,96 centesimi più IVA. Liliana, molto rapidamente, si trovano a Londra queste mascherine oppure no? Qui si trovano, non sono obbligatorie, comunque il governo ci ha insegnato come farle tagliuzzando magliette. Un approccio pragmatico. Chiudiamo, caro Carmelo, con Crozza. No, chiudiamo con Crozza che Gallera e Fontana in conferenza stampa. Crozza che imita entrambi. Sto mischiando perché stiamo per dare i dati di oggi, 123. Dati importanti, che cosa è uscito? Col bussolotto, è uscito il 123. Guariti, se sei d'accordo. Ma non sono pochi guariti, sì. Vabbè, tira su un altro numero, sì, dai. Tiriamo su un altro numero, allora tira su, allora dico, 1123. Ecco, i guariti sono i guariti di oggi. Cosa state facendo? Stiamo rispettando. Vabbè, dai, che così iniziamo il lunedì con un po' più di leggerezza, Grazie Daniela Preziosi del Manifesto, Liliana Faccioli Pintozzi, corrispondente a Londra di Sky TG24, c'è il GR, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa e con Paolo Mieli, a dopo.